talentuosissimi, talentuosissimi, talentuosissimi. Bounce Belvedere, stilosissimi, stilosissimi, stilosissimi. Bounce Belvedere, talentuosissimi artisti, stilosissimi. Gara DJ Maschi. Bounce Belvedere, bounce Belvedere, bounce Belvedere, bounce Belvedere. Questa nazione ha bisogno di rivoluzione. Parto in tromba, basta questa sua fazione. Vivi alienazione, in mezzo alle persone. Trova la situazione, cerca aggregazione. Prima cosa, spegni sta televisione. Scegli tu i tuoi canali per l'informazione. Poi prendi posizione, aspetta l'occasione. Rendi il mondo come vuoi quando c'hai ragione. Troppe regole, non sai più come prenderle. Perché non cambi questa vita ad entrambi? La trappola scatta anche nei modi più strambi. La vita più sciatta, sogno a bar eleganti. Io vorrei due casse giganti. Anch'io a modo mio omologato come tanti. Anch'io grazie a Dio c'ho i commenti ignoranti. Ma io e il mio governo siamo troppo distanti. Talentuosissimi, talentuosissimi, talentuosissimi. Bounce Belvedere, stilosissimi, stilosissimi, stilosissimi. Bounce Belvedere, talentuosissimi artisti, stilosissimi. Gara DJ Maschi. Bounce Belvedere, bounce Belvedere, bounce Belvedere, bounce Belvedere. Mi piove tutto addosso, resto fermo quanto posso. Il banchetto è terminato, a me è rimasto l'osso. Ho mosso, ma la scacchiera si tinge di rosso. Ferito, perdo sangue, ma non me la faccio addosso. Resti solo, solo proverei a risolvere. Ti sentirei pressato con il guaio in pieno evolvere. E arriverei a pensare di sanare col revolver. Legittima difesa da te stesso e ti fa solvere. Cerchi solo di finire, di soffrire. Finirai per emulare il peggio esempio da seguire. Tutti parlano, sentenziano, ma non li stai a sentire. Prende forma con l'impulso, l'azione da eseguire. Combatti e lotti con nemici giganti. Poca forza per muoverti, ma devi andare avanti. Mettiti i miei panni, li troverai pesanti. Risolvi i miei problemi creando altri più grandi. Solido il solito ostacolo da battere. Al tuo orecchio le parole suoneranno chiacchiere. Leggero il tuo pensiero, non mi riuscirei a combattere. Mi sbatterò le palle come fossero nacchere. Sempre presente il sintomo di vomito. La musica mi cura come fosse un antibiotico caotico in un corpo calmo per definizione. Mi serva da lezione, sono nel centro del ciclone. Talentuosissimi, talentuosissimi, talentuosissimi. Bounce Belvedere, stilosissimi, stilosissimi, stilosissimi. Bounce Belvedere, talentuosissimi artisti, stilosissimi. Gara DJ Maschi. Bounce Belvedere, bounce Belvedere, bounce Belvedere, bounce Belvedere.